English Bit di Giulia Crivelli. Buzz. Designers from Dolce & Gabbana to Tod's staged elaborate spectacles to generate social media buzz. Gucci is poised to continue its trend-setting run. Christina Binkley, firma di punta del Wall Street Journal su temi che legano moda ed economia e moda e finanza, ha dedicato molti articoli alla Fashion Week di Milano. Il sommario di questo approfondimento era: da Dolce & Gabbana a Tod's, gli stilisti hanno messo in scena, to stage, spettacoli per generare eco sui social media. Gucci sembra destinato a continuare a essere un trendsetter. La parola che ci interessa è buzz, ma notiamo anche la traduzione di designers, che è stilista. Stylist, invece, è un false friend, non significa stilista, ma non si traduce in italiano, perché indica la persona che si occupa dello style di una sfilata o di una celebrity o di un'attrice. Sceglie cioè come comporre abiti o accessori su una passerella o nella vita reale di una star che ha un'intensa vita sociale e molti red carpet, tappeti rossi da calcare. Veniamo a buzz. Come nome significa eccitazione, agitazione positiva. You can sense the creative buzz of the city of Milan. Riesce a percepire il fermento creativo di Milano. Oppure, she gets a buzz out of her work. Trae eccitazione dal suo lavoro. Il social media buzz è quindi quel moltiplicarsi di messaggi, foto, filmati che dopo aver fatto un passaggio su Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, sui social media per l'appunto, diventano, come si dice, virali. Il significato originale spiega quello figurato. Buzz vuol dire ronzio, ad esempio delle api, ma anche rumore continuo e leggermente fastidioso di persone che parlano contemporaneamente. The buzz of conversation suddenly stopped when she came into the room. Il rumoreggiare si fermò improvvisamente quando lei entrò nella stanza. Buzz è anche un verbo regolare. New York buzzes from dawn to dusk. New York è sempre in moto, dall'alba al tramonto. Bees buzzled lazily among the flowers. Le api ronzarono pigramente tra i fiori. Torniamo al titolo del Wall Street Journal e notiamo il verbo to be poised, regolare, che significa essere destinato, obbligato a fare o diventare qualcosa. Kate is poised to become the highest paid model in the fashion world. Kate è destinata a diventare la modella più pagata del mondo della moda.